don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know it hurts me so. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here in a rolling fog. Baby, please don't go. Don't go, baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know it hurts me so. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here on old Parchman's farm. Baby, please don't go. Please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go and leave me here. You know it's cold out here. Baby, I'm way down here. You know I'm way down here. Baby, I'm way down here on old Parchman's farm. Baby, please. You know it's cold down here. Baby, it's cold down here. Baby, it's cold down here and on old Parchman's farm. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go and leave me here. You know it's cold down here. I'm half fed down here. I'm half fed down here. I'm half fed down here on old Parchman's farm. Baby, please don't go. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Default con Whiskey Trip. Questo era Big Bill Bronzi con Baby Please Don't Go. Salutiamo tutti, vi auguriamo una buona serata. Siamo arrivati alla terza puntata della nostra trasmissione Whiskey Trip Blues e Jazz sola andata. Io sono Alessandro, con me qui c'è Antonio. Sì, vi dicevo, abbiamo appena ascoltato il grande Big Bill Bronzi con Baby Please Don't Go. Questa prima parte della nostra puntata tutta dedicata al blues di Chicago, al blues elettrico. Ascolteremo anche questa sera molta, molta buona musica, ma io sono emozionatissimo, ragazzi, veramente, perché questa sera c'è una cosa speciale. Abbiamo l'onore di avere una grandissima celebrità, una stella del cinema, un grandissimo qui in studio con noi. E Antonio, veramente io mi trema la voce, non so, forse è meglio che lo dici tu. Sì, sì. Io, ragazzi, ecco, intanto buonasera, sono appena tornato da Fiumicino perché sono andato a prenderlo. È stato già bellissimo poter fare questi 30 km insieme. Lo annunciamo così, secco. Non so, cioè, siete pronti, ragazzi? Vabbè. Sedetevi se qualcuno è. Sedetevi perché, signori e signori, stasera Whiskey Trip su Radio Default abbiamo in studio Samuel L. Jackson. Samuel, un saluto alla radio. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti! È per me un onore essere qui in Radio Default con i ragazzi di Whiskey Trip, ok? Viaggio Fiumicino Gelsaulo, tutto bene? Grazie mille, spero sia una buona trasmissione per voi. Grazie mille, Samuel, poi durante il corso della puntata insomma tornerà e avremo domande, anzi scriveteci se avete domande da porre personalmente a Samuel. E vabbè, Alessandro, sei ripreso da sto ospite clamoroso? Ancora non mi sono ripreso, ma insomma vedrò di fare qualcosa. Magari ci riprendiamo con il prossimo pezzo, che a me personalmente piace tantissimo. Adesso ve lo vado a presentare. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Whisky Trip, www.facebook.com/whiskytrip. Potete scriverci le vostre sensazioni, i vostri commenti, sono ben accetti. Cliccate mi piace ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22 insieme con noi. E anche il sito di Radio Default, www.radiodefault.it. Allora, vi andiamo avanti con la grande musica, con il grande blues. Vi vado a presentare il prossimo pezzo. Dopo Big Bill Bronzi ascoltiamo un altro bluesman, uno dei primi bluesman a registrare un disco addirittura, un grande chitarrista slide. Sto parlando di Tampa Red. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Hard Road Blues su Radio Default. To travel when you got to travel all alone. It's a hard road to travel when you got to travel all alone. When bad luck and trouble have done drove you from your home, you will drift and worry like a ship out on the stormy sea. You're gonna drift and worry like a ship out on the stormy sea. Full of blues and trouble and a heart full of misery. But you'd rather be walking, 'cause you don't appreciate no ride. You'd rather be walking, because you don't appreciate no ride. When you haven't got the one you love, red clothes by your side. Bound to get tired carrying that heavy load. We'll be right back. Allora, eccoci tornati ragazzi, scusate l'attesa, ma qui insomma stasera con Samuel in studio è una serata un po' più particolare delle altre. Allora, parliamo del prossimo artista, Alessandro. Beh, intanto Rhys Miller, ti dice niente il nome? Poi è famoso con il suo pseudonimo, no, non gli dice niente, dalla faccia ve lo dico io. Diciamo che è stata una delle più grandi icone del Chicago Blues e una sfilza infinita di numerosi artisti al top hanno reinterpretato i suoi brani, tra cui Van Morrison, i New York Dolls, Nick Cave, John Mayer, Led Zeppelin, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Mike compra una vocale, anche se non è uscito, gli Aerosmith, gli Who, Muse Allison, Gary Moore, e mi fermo perché basta ragazzi. E di chi parliamo? Insomma, non hai indovinato adesso? Non hai indovinato, è Sonny Boy Williamson, uno dei più grandi armonicisti di sempre, e lo ascoltiamo anche in sonorità un po' particolari con One Way Out. Questo era Sonny Boy Williamson con One Way Out, eccoci tornati in diretta. E dunque passiamo sì al prossimo pezzo, che dopo aver ascoltato molti, anche nella prima puntata, abbiamo ascoltato molti chitarristi, oggi ascoltiamo un pianista, un grande pianista del Delta di Chicago, parlo di Sonny Lam Slim, che Molti di questi bluesmen che ascolteremo stasera vengono dalla zona di Chicago, perché come qualcuno saprà, immagino, a Chicago negli anni del dopoguerra diventò uno dei centri, dei grandissimi centri del blues americano, e non fa eccezione Sonny Lane Slim, grande pianista che ha collaborato tra i molti anche con il Can Edit, il disco Boogie with Can Edit del 1968. Ascoltiamo, ci voleva, sì, secondo me, un po' di blues al pianoforte, strumento, sonorità che io amo molto personalmente. Ci ascoltiamo di Sonny Lane Slim questa Woman, I Ain't Gonna Drink No More Whiskey. Whiskey Trip. This title of this tune, I ain't gonna drink no more. I don't know how true that's gonna be. And the words of this tune was written back some time ago. Some of them started out along the 40s and some end up in the 52. Some of my own version of it, I ain't gonna drink no more. No more whiskey, 'cause you and whiskey taking advantage of me. You know I ain't gonna never drink no more whiskey, 'cause you and liquor taking advantage of me. You keep me blue and disgusted as any man can ever live and be. When I draw my little money, oh, I just can't feel satisfied. Woman, when I draw my little money, oh, I just can't feel satisfied. Upset on my mind. Well, all right. Eccoci ragazzi, pronti con Samuel. Lo so che non aspettavate altro stasera. Samuel, io ti vedo un po' attufato, che ti è successo? Non lo so, veramente potrebbe essere il viaggio Los Angeles-Roma, molto lungo. Vabbè, quanto ci hai messo? Circa 8 ore più o meno. Molti whisketti ho bevuto su aereo. Allora Samuel, famo una cosa. Mo famo sto sforzo, ricogliamo se sta frittata stasera. Domani Ci proviamo e ci riusciamo, Samuel. E domani Sarà molto dura. Domani io ti prometto relax più totale giù al lago dei Nemi. Ci Ci stai, Samuel, via con me? Ma magari, io ho venuto per Whiskey Trip e il lago di Nemi, Lake of Nemi. E allora già hai capito tutto, Samuel, non ti dobbiamo spiegare niente e introduciamo il prossimo brano. Allora, il prossimo brano si tratta di un personaggio che Samuel mi ha raccontato un aneddoto che lui ha conosciuto personalmente. Io lo invidio davvero tantissimo per questo, perché sto parlando del più grande bluesman del dopoguerra, il più grande, uno dei veramente grandissimi. Io dico sempre questa cosa ogni volta che parlo, lo so, qualcuno è il più grande, ma questa volta, ragazzi, veramente è il più grande. Sto parlando di Muddy Waters. Sì, infatti è un suo caro amico, io lo invidio davvero tanto per questa cosa. Dicevo, Muddy Waters, anche lui nato nella zona del Mississippi, che è un luogo che ha dato i natali a tantissimi bluesmen. Anche lui è emigrato a Chicago nel dopoguerra per lavorare, è finito a lavorare in una fabbrica di carta, non so perché, insomma. Eppure finì a lavorare in una fabbrica di carta e poi... la fabbrica, cioè non che la fabbrica fosse di carta, che sta informissima stasera questa, guarda, insomma, e qui a Chicago mette in piedi quello che può essere definito il più grande complesso blues di tutti i tempi, con Jimmy Rogers alla chitarra, Little Walter, che ascolteremo più tardi, all'armonica, Otis Spann al pianoforte, Willie Dixon al basso. Insomma, veramente il meglio del meglio, la crema della crema, come si dice qui dalle nostre parti. Un blues che si rifaceva ai primi bluesmen, ma elettrificato, amplificato. E bando alle chiacchiere, comunque il pezzo che ascoltiamo di Muddy Waters, non potevo non spendere alcune parole davvero per lui. È interessato, ti interrompo, ma fallo presentare a Samu questo pezzo, dato che è amico suo. Sono d'accordo, assolutamente. Io vi dico solo che questo pezzo, anzi, ve lo dice Samuel, perché lui lo ha incontrato personalmente. Ok, allora andiamo a presentare il mio amico Muddy Waters, Muddy Buddy per gli amici, Muddy Buddy Waters. Ok, con Rolling Stone. Well, I wish I was a captain swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. I went to my baby's house, and I sat down, oh, on her cell. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up just now left. Showing up just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Thank you. like it low down, oh, time ain't long. I'm gonna catch it for a thing smoking back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showed up there. Showed up there. Eccoci qui di ritorno in diretta, sono sempre Alessandro, con me qui c'è Antonio, grande serata questa sera, bellissima musica e assolutamente atmosfera negra. E allora il prossimo anche lui un mito, una leggenda del blues. Ringrazio una nostra cara ascoltatrice per il messaggio che ci ha appena sì, blues. Ci ha appena insomma lasciato un commento sulla nostra pagina, ci scrive sempre, ci dice questa cosa: mettete grande musica da strappa mutande. Naturalmente la ringraziamo. Noi qui a Whiskey Trip insomma facciamo sul serio, non è che stiamo insomma ad asciugare gli scogli. È la vita che lavoriamo a questo, insomma. Poi vabbè, non so con che risultati altalenanti, diciamo, però. Però insomma grazie a questa nostra cara ascoltatrice Sara. Allora andiamo avanti. Ah, ecco cosa stavo dicendo, me lo ricordava anche il nostro amico Samuel, sai Antonio, che e questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Rolling Stone o Catfish Blues, e naturalmente immagino che vi dica qualcosa Rolling Stone, insomma è proprio la canzone dal quale i Rolling Stones hanno preso il nome della loro band, a testimonianza di, come diceva Antonio nell'altra puntata, girate, andate dove volete, ma sempre da Whiskey Trip dovete tornare, perché tutta la musica insomma proviene dal blues, proviene da qui. Ma insomma non mi dilungo, non mi voglio dilungare, voglio ancora lasciare spazio alla grande musica, e quindi il prossimo grande che andiamo ad ascoltare è Howlin' Wolf, e il pezzo in questione, il pezzo si chiama Wang Dan Doodle. All night long. Eccoci tornati in diretta, ragazzi. Beh, siamo passati da Sonny Boy Williamson a Howlin' Wolf. Chi manca, Alessà? Ne manca solo uno. Il grande chi? Dai, dillo te, dillo te. Il grande che poi è un piccolo, ma nel nome, ma più grande nei fatti, Little Walter. Che diciamo, ragazzi, dai più è ritenuto il miglior armonicista di sempre. Anche lui, grandissima icona del blues di Chicago, ha il merito ed è famoso proprio per questa cosa, che è stato il primo ad avere l'idea di amplificare l'armonica. Come diceva prima Alessandro, per tanto tempo e per tanti lavori è stato l'armonicista di Muddy Waters. E quindi adesso, ragazzi, a Radio Default, Little Walter, Mellow Down Easy. Jump here, you jump, jump there, you jump, jump, jump everywhere. Then you mellow down easy, mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. You shake, shake here, you shake, shake there, you shake, shake, shake everywhere. Then you mellow down easy, mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. Mellow down easy. You mellow down easy when you really wanna blow your top. Ragazzi, dopo questo Little Walter proprio di classe, che facciamo? Minimo lo bissiamo. Diciamo, intanto spendiamo altre due parole su di lui. Intanto una cosa carina è che Little Walter è uno dei protagonisti del film Cadillac Records. Il film descrive la storia della Chess Records, prima casa discografica che ha lanciato i vari Muddy Waters, Howlin' Wolf, Etta James, Chuck Berry e molti altri. Diciamo, proprio nel film è uno dei personaggi principali e viene molto risaltata la sua personalità controversa. Basti pensare che in una scena, mentre è in tournée con Muddy Waters, incontra un'altra band che diciamo aveva il suo stesso nome, e cosa che dicono insomma sia vera, lui ha reagito estraendo la pistola e sparando. Quindi, ragazzi, Little Walter, cioè, grandissimo artista, però pure un attimo un campana, perché ecco, questo c'è il pezzo, regà. E quindi niente, adesso ci ascoltiamo la prossima di Little Walter, che è Tell Me Mama, e poi torniamo dal nostro amico Samuel. tell me, mama, who was that while ago? Oh, tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Now don't come here, mama, I'm gonna start a raising sand. You've been out boogie-woogie, and there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Now this is something I never seen before. A man is getting my money, always slamming my back door. I want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I came in, who went out that back door? Want you to tell me, mama, why can't you be true? Yes, when I came in, who went out that back door? Smelling like a whiskey can, my hat in his hand and my overcoat too. Want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I came in, who went out that back door? Eccoci qua, allora torniamo qui in diretta con Whisky Trip, prima oretta, prima mezz'ora della nostra trasmissione, prima parte dedicata al blues, e andiamo avanti adesso ascoltando ancora su territori blues. Ci ascoltiamo un bluesman forse un pochino meno conosciuto, che si chiama Floyd Jones, e anche lui nato in Arkansas, iniziato la sua carriera come musicista itinerante nella zona del Mississippi, cantante, chitarrista e bassista. Si trasferisce anche lui dopo la guerra a Chicago e lì inizia la sua carriera, la sua grande carriera. Anche lui ha ispirato, ne parlavamo prima con Sunnyland Slim, ha ispirato i Canned Heat, che sarà un altro gruppo di blues rock che avremo modo di ascoltare e che riprenderanno una sua canzone che è On the Road Again. Invece adesso ci ascoltiamo di Floyd Jones una traccia che si chiama School Days on My Mind. When I was a little boy, my mother tried to send me to school. I didn't want to go, cause I know nobody's blue. I got school days. School days is on my mind. Always standing outside. down to the judge to try to explain. And he gave me a pencil, I put it. He signed my name, I got it. Hey. Whiskey Trip su Radio Default, trasmissione dedicata al mondo del blues e del jazz. Abbiamo appena ascoltato Floyd Jones. Ci avviamo, sì, verso la seconda parte della puntata, nella quale ci sposteremo verso sonorità un pochino diverse. Adesso abbiamo ancora qualche pezzo da ascoltare insieme di grande blues. Parlavamo prima di Miles Davis, no, non di Miles Davis, di Muddy Waters, scusate, di Muddy Waters, della sua alcune le storie di questi bluesmen, a volte sono piene di aneddoti da raccontare. Se Muddy Waters, dicevamo, ha iniziato la sua carriera lavorando in una fabbrica di carta, Willie Dixon, che nasce come cantante di strada, impara a suonare in chiesa, pensate, si trasferisce poi a Chicago tentando una carriera da pugile, tutt'altra cosa, da pugile, ma poi gli va male, forse è stato steso al tappeto troppe volte, chissà, e allora inizia a suonare prima il contrabbasso, poi il basso, poi la chitarra elettrica, e da molti è considerato il padre, uno dei padri del blues di Chicago. E ha scritto davvero tantissimi pezzi, molto spesso portati poi al successo da altri artisti. Ne ricordiamo alcuni che sono entrati nell'immaginario del mondo del blues: Uchi Coochie Man, che sarà ripresa da Miles Davis, da Chuck Berry, da B.B. King, da Eric Clapton, addirittura dai Motorhead, a sottolineare sempre questo legame tra il mondo del blues e quello del rock. Backdoor Man, che sarà inserita dai Doors nel loro primo disco. Ain't Superstitious, ripresa da Jeff Beck, da Carlos Santana, dai Megadeth. You Shook Me, che sarà uno dei pezzi che andrà nel primo disco dei Led Zeppelin. Insomma, un'altra leggenda del blues. E anche questo pezzo che stiamo per passare, che è I Can't Quit You Baby, e sarà inserito dai Led Zeppelin nel loro primo disco, che è un disco che è una pietra miliare del rock, il primo dei Led Zeppelin, Led Zeppelin 1 del 67 o 68, ma che è fatto in gran parte di materiale blues, insomma, non, non nascondevano i Led Zeppelin la loro grande, il loro grande amore per il blues. Quindi adesso ascoltiamo l'originale, quindi Willie Dixon con I Can Quit You Baby. Thank you. Eccoci tornati, ragazzi, dopo questo pezzo semplicemente mostruoso. Però diciamo che da questa passiamo a qualcosa di altrettanto mostruoso, se non quasi di più, perché parliamo di una collaborazione davvero interessante. Beh, dato che è stato tirato in ballo più volte stasera, intanto parliamo di Muddy Waters. E il brano è Got My Mojo Working, che è un brano inserito dalla rivista Rolling Stone tra i 500 migliori brani di tutti i tempi. Scritto nel 1956 da Preston Foster e inciso da Ann Cole, fu reso popolare nel 1957 proprio da Muddy Waters. E qui nella versione live del Buddy Guy Checkboard Lounge del 1981. Indovinate insieme a chi? Samuel, vienici a dire insieme a chi, che sono tuoi amici anche loro, se non sbaglio. Ma ovviamente insieme ai amici i Rolling Stones. Cioè, raga, Muddy Waters e i Rolling Stones. Got My Mojo Working. Eccoci ragazzi, di nuovo qui in diretta da Radio Default. Che ci facciamo adesso? Io direi intanto un piatto di pasta. Allora, facciamo una cosa ragazzi, perché io, ecco, sto cenando adesso per voi, che io sono diciamo molto tendente al fancazzismo. Poi c'ho sti mercoledì di fuoco, cioè non faccio niente tutta la settimana e poi affido tutto sto giorno. Però guarda, non è una brutta vita la mia. Dicevamo, allora, John Huger, Alessandro sta a mangiare, non è che sta a collaborare, raga, vabbè, faccio io, John Huger, e cavolo, raga, un'altra grandissima collaborazione, insieme ai Canne Dit. Diciamo che, allora, intanto John Huger è un bluesman, insomma, notissimo, l'abbiamo già citato tantissime volte. I Canne Dit invece sono praticamente il miglior gruppo di blues bianco. Hanno partecipato a Woodstock, che insomma penso sia già una bella nota sul loro curriculum, e addirittura hanno fatto un doppio disco con John Lee Hooker, e che fu addirittura l'ultimo disco, capisce che sto a leggere, ragazzi, ho fame, scusate, fu l'ultimo disco con insieme al loro leader Alan Wilson, prima che morisse di overdose di eroina. E quindi da questo bellissimo album del 71, che è Hooker and It, noi ci andiamo ad ascoltare Whiskey and Women. Whiskey and Women. Get back on my feet again. baby. Rock me all night long. Let me see if I can do it like Muddy Waters used to do it. Rock me, baby. Rock me all night long. Buddy can do it. Rock me, baby. Like my back ain't got no bone. Eccoci ragazzi, tornati in diretta con Whisky Trip. Stiamo andando allora verso la seconda parte della puntata, della serata. Questi erano i quattro cavalieri dell'apocalisse, del blues: B.B. King, Eric Clapton, Buddy Guy e Jimmy Vaughan con Rock Me Baby. Abbiamo ascoltato in questa versione live. E ora sì, ci piaceva fare un break, fare una piccola pausa, sfumare, passare a sonorità un pochino diverse, dare spazio anche al jazz, anche allo swing. E allora vi volevamo far ascoltare sì qualcosa dell'era swing, qualche nome del jazz, del grande jazz. Il primo è Red Nichols, che era un suonatore di cornetta, compositore, band leader, che pensate è sicuramente una figura principale dell'era swing. Nei soli anni 20 compare in più di 4.000 registrazioni e la sua carriera dura fino agli anni 60. E la sua orchestra era un'orchestra del jazz bianco, che forse è meno selvaggia, maggiormente intellettuale, ispirata a certe sonorità europee, ma comunque parliamo di grande jazz. In questa band hanno suonato Benny Goodman, Jan Krupa, Jimmy Dorsey, Glenn Miller, quindi parliamo comunque di roba al top. E allora il pezzo di Red Nichols che ci andiamo ad ascoltare in questa seconda parte, e in cui passiamo più verso il jazz, il pezzo si chiama Hot Lips. Thank you. E queste erano le sonorità swing della grande Red Nichols, della sua orchestra, della sua big band con Hot Lips. E continuiamo allora sullo stesso stile, con le grandi orchestre di swing, musica bellissima per ballare, per scatenarvi nel ballo se siete a casa e volete improvvisare uno swing, un passo, potete farlo con queste bellissime sonorità. E dopo Red Nichols ci ascoltiamo uno che nell'orchestra, nella big band di Nichols, ci ha suonato e è stato anche lui grande compositore dell'era swing, un grande clarinettista, parlo di Benny Goodman. E lo ascoltiamo qui con un pezzo che si chiama Sing Sing Sing, e è bello, bello ricordare che la grande orchestra di Benny Goodman in quest'epoca, parliamo degli anni negli Stati Uniti delle discriminazioni razziali, era una big band invece dove convivevano e suonavano insieme musicisti bianchi e neri. Forse un bel esempio di come la musica riesce ad unire molte volte, ad abbattere le barriere che si creano tra le persone, tra le cose. Quindi con Benny Goodman ci ascoltiamo Sing Sing Sing. Di nuovo in diretta, ragazzi, qui su Radio Default. Dopo queste sonorità scatenate, io vorrei fare una cosa un po' indegna. Vorrei usare la radio per scopi meramente personali. Parliamo di Speranza Spalding, una jazzista, una contrabbassista fortissima, ragazzi, venuta alla ribalta in questi anni, ed è anche una grandissima cantante. Il pezzo che ho scelto per voi è un estratto da Speranza, che è l'album del 2008, il suo secondo disco. E vabbè, ragazzi, quindi questo messaggio, Speranza, sono sicuro che mi stai ascoltando. Ti invito a venire in radio, ci facciamo 7, 8, 9 birre e poi ho tantissimo da offrirti. Possiamo andare a Colle Pardo, ai Pentime du Lago, ai parcheggi a Castello, Speranza. Insomma, guarda, intanto passo la tua ai noi o no, e poi ti aspetto qui, insomma, a tra poco. Sing it again. I love you, baby. Love it, don't take me away. You Allora ragazzi, eccoci tornati, siamo proprio allo sprint finale e introduciamo un attimo un altro genere, parliamo di jazz comunque sperimentale o tendente all'elettronico. Iniziamo, scusate, c'è qualche tafferuglio qui, no, chi se mena? Samuel, che succede? Ah, c'è Samuel che è arrivato già un'altra volta, ragazzi, non si sa, stanno a ballare sulla nostra musica. Allora, dicevo, fatemi fare 2 minuti al serio, 2 minuti ve chiedo. Take 5, un pezzo famosissimo, un classico della musica jazz che sicuramente molti di voi conosceranno, scritto da Paul Desmond e suonata da Dave Brubeck col suo quartetto nell'album Time Out del 59. Questo standard si caratterizza soprattutto per la sua metrica in 5 quarti, da cui deriva il nome e per aver valorizzato il solismo batteristico di Joe Morello. Noi ragazzi lo ascoltiamo in una reinterpretazione fantastica di una persona che ha ben poco bisogno di altre presentazioni, che è Tullio Di Piscopo. Mi sta un po' incartà, ragazzi, siamo diventati tanti, uno troppo whisky ci siamo bevuti adesso, quindi sciogliamoci un attimo. E poi non lo so, stiamo in 12 in regia, volete fare un saluto, fatevi sentire ragazzi, siete qualcosa, cioè capito, quindi ecco, non so, io che so pure un po' dislessico, ma insomma capite che non è solo colpa mia. Insomma niente, dicevo, Tullio Di Piscopo, regà, con questa reinterpretazione di Take 5 che c'ha pure sprazzi, non so, di sintetizzatore, perché poi insomma è stata fatta verso gli anni 80 e dimmi tu, poi via l'artista più grande di sempre, ma negli anni 80 hanno fatto tutti mezze cazzate, regà, però insomma è un po' particolare, molto, molto interessante, insomma, pure da un discorso storico. Poi vabbè, il jazz non ha continuato a evolversi, diciamo, in questa direzione. Tullio Di Piscopo, Take 5. ragazzi, siamo arrivati al momento dei saluti. Ci sarà Alessandro tra poco che vi presenta le ultime due tracce di un artista che trovo davvero molto interessante. Volevo solo ricordarvi al volo che da adesso sulla nostra pagina Facebook sono disponibili le registrazioni delle puntate, diciamo on demand. Senti che termine figo, Alessandro. Almeno chi magari il mercoledì per qualunque motivo non riesce ad ascoltarci può recuperare. Con questo vi saluto e ci sentiamo mercoledì prossimo. Benissimo, allora sì, in chiusura vi salutiamo, ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Default e di Whiskey Trip, e volevamo parlare di una figura piuttosto particolare del mondo del jazz, in realtà una figura che è a cavallo tra il jazz, la musica classica, la musica di sperimentazioni elettroniche, la musica per film, una figura di un compositore veramente completo e secondo me molto molto molto interessante. Parlo di Raymond Scott, pianista, compositore, nato a Brooklyn, direttore d'orchestra, ingegnere del suono, o anche inventore di alcuni strumenti elettronici, il Clavivox, l'Electronium, che erano una sorta di sintetizzatori, di prototipi del sintetizzatore. Alcune sue musiche sono state usate, famoso forse un pochino per questo, sono state usate dalla Warner Bros. Per i suoi cartoni animati, parlo dei Looney Tunes, i vari Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig. E pensate che nel 1946 questo grande compositore, questa figura molto particolare veramente, che ha varcato i generi, e ha fondato il Manhattan Research Studio, uno dei primi studi per la ricerca elettronica al mondo, dove inventava i suoi strumenti e sperimentava tra jazz, musica classica ed elettronica. I due pezzi che andiamo ad ascoltare di Raymond Scott, molto brevi ma davvero molto belli e particolari, il primo si chiama Portofino, l'altro invece si intitola In an 18th Century Drumming Room. Come si può capire dal titolo, la particolarità è che si rifà alla musica classica e in particolare si rifà ad un tema di una sonata per pianoforte di Mozart molto famosa, la sonata K545, di cui Raymond Scott riprende il tema in una versione tra jazz ed elettronica, un'orchestrazione tra jazz, musica elettronica, sintetizzatori. E quindi in chiusura ci ascoltiamo questi due pezzi, Raymond Scott con Portofino e In an 18th Century Drumming Room. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre mercoledì alle 20.30 su Radio Default, e cliccate sulla nostra pagina Facebook Whiskey Trip, e una buona serata, vi auguriamo buonanotte, un proseguimento con Effetto Notte. E ci ascoltiamo Raymond Scott. Thank you.